vicina, mannaggia. Thank you. qua il microfono, se non mi ricordo male, eccolo qua, no, è il suo originale quello che c'è, per parte. È proprio originale al 100. Sì, è il suo originale, no? Però quello vuol dire quasi che ci sia qualche cosa che lo tiene inserito. Infatti la macchina non lo sta inserito molto, non si sa mai, anche se si trattene, rimane inserito qualche cosa, magari rimane importante e può mangiare. Anche questo di Baracchino, questo qui, quello piccolino, il 100, della serie, spento, messo qua sulla mensola, coperto bene, coso, riusato dopo un po', sfasciato. Periodo strano, anche perché ti ripeto, grossi corsi non ho che posso attaccare, quindi il danno non è che ne posso fare, capito? Grosse apparecchiature non ne ho, a dire beh, attacco questo e magari vedo un pochino di fonderlo, di cosa. Niente, ho questi due cose messi in croce qui, soltanto che li spengo che sono perfetti, vai a risarmi, cazzo, se non vuoi a carca. Infatti mi ricordo la cosa, non sbaglio, ho tolto via la macchina per montare l'auto, ho detto, ha funzionato fino un attimo prima, lo ricordo bene, un po' di cose strane, e a proposito, a proposito, che mi ha fatto? E quello là ce l'ho sempre in macchina. Cosa può essere partito, non lo so. posso attaccare, sai, per farlo uscire di più o con tutte quelle teorie lì, mi capisci? Proprio niente, non è che, ripeto, a panichi elettronici battono uno nulla, magari per succedere qualcosa. Però dai, speriamo bene, cavolo, anche perché a livello di età mi manca un po', perché questo pezzo di cose è vuoto. Una cosa che fa fastidio, perché a me la moto mi ha fatto fastidio, che ha fatto fastidio, era anche un fastidio, perché l'apparato è nuovo, non è che sia. E poi gli ho anche fatto il discorso che comunque l'apparato era anche in garanzia e mi ha detto che se non c'è lo scontrino la garanzia la perde. Tu lo sai, ma hai detto già che se non c'è lo scontrino noi in garanzia non te lo possiamo far passare, perché loro fanno la fotocopia dello scontrino per farlo passare in garanzia, lo allegano al foglio, no, che spediscono, perché poi a loro gli ritornano i soldi, capito? E quindi dice, se non ci abbiamo lo scontrino cosa facciamo? Interessa tanto quello quanto che non si spenda più di 100 euro, perché se la spesa è più di 100 non lo fare, perché no, ma non se ne parla nemmeno, non penso, dice, che arrivi a quella cifra lì. E adesso vediamo, speriamo che non dicano e poi faccia sì. No, speriamo che me lo spediscano, perché il pezzo della scrivania è molto qui, cavolo. Quando è che l'abbiamo spedito? Mi pare che ero ancora in piedi. Mi si è mappa e non mi sento buono. Tempo ci vuole. Loro dice che hanno. Dice già c'è stato questo cambiamento di laboratorio. Poi c'è stata la fiera, insomma, un po' tutte le cose. Speriamo bene. Mi auguro solo che te lo mandino bello a posto e che sei contento, dai, che non spendi nemmeno molto. Perché mi dispiace. Un colpo me lo sono preso anche io l'altro giorno, perché ha abbassato il volume e non usciva più l'apparato. Periodo strano comunque, periodo strano, perché io l'altro giorno stavo scendendo a Olbia e ho incrociato dei colleghi, no? E mi hanno fatto la chiamata, andavo a rispondere e loro mi dicevano: Giuseppe, non stai uscendo di radio con il 48, quello che è in barra pesante. Cavolo, adesso non sto uscendo di radio, strano, eppure tutto a posto, tutto l'ho controllato e tutto, e invece sai che cos'era? È abbassato tutto il macchinino. C'era cosa del microfono, il volume del microfono al minimo. Invece io posso toccare l'altra rotella per abbassare il rumore di fondo, ho abbassato le cose del microfono e lui mi ha fregato. Vabbè, quello è un poco male, dai. Succede anche a me qualche volta. Magari non lo so se spolverando o Marcolino che tocca, chi lo sa. A volte Antonio mi dice già, sei strano, si abbassa il radio, andiamo a vedere ma che viene abbassato, però me lo so, ci vado dritto dritto a colpo sicuro. Sono apparecchi e sono soggetti, comunque l'alimentatore per pelle è così e basta, anche manualmente me lo fa. Anche manualmente? Me l'ha fatto anche manualmente. Poi lo sai che cosa? Stacco la spina della prolunga, la riattacco e si riaccende. Perché è in professione, è strano. Oh, che scala, cosa ne so, che pure la ventola è sempre attaccata, non è a dire che la ventola non si attacca, l'ho ascoltata, è sempre attaccata. Ma gira, sì, si è cercato, si gira. La ventola, sì, sente. Ma poi non mai l'ho capito, basta che stacchi la spina, la riattacchi, la resisti praticamente e ripara. Io so che non è chiara. Ti piace? Come mai? Forse è troppo forte. È troppo forte. Ci faccio un po' con la radio. Guarda, così. E così va un po' meglio, vero Giuseppe? Ma in quel passaggio ho aumentato vertiginosamente. Ho passato un po' di orco, molto frastuono, molto frastuono nel sottofondo, capito, poco fa, e non si percepivano bene le parole. Adesso va meglio. Ah, ecco, ho già capito dove si sta. Ecco qua, come si opera. Poi saturino, sì. Saturno, e guarda, c'ho... Dove ci vada? Non... Perlomeno, se non è che la sento io, voi. Tu senti come la senti questa radio? Percepisce male, non lo so, io non voglio magari metterti paranoia, magari colpa mia. Attenzione un secondo, guardato, buongiorno, aspetta, ma c'è ancora. Vediamo se mi riuscite a sentire. Va bene, appagata. Giuseppe, Antonio non c'è. Ma sono qua, buonasera a tutti. Oi Antonio, in quarta si è partito. Buonasera anche da parte mia. Fai un passaggio per banco, non ho capito niente della situazione. Abituato a sentire in una certa maniera, quindi se non esce come esce sempre me ne accorgo. Vabbè, ma comunque va bene, dai, adesso va bene. E beh, io tengo pure che fa bene, caro grido, già. In effetti poco fa era troppo forte, dai. Nonostante tutto io sono attenuato quasi, non guai. Cazzo è troppo forte, ci viene la rampina in terra l'antenna e noi. Aspetta, adesso voglio risalire, a 12 volte, radio, non è chiara chiara. Più chiara prima, per fatto, io dico la verità, per me, poi non lo so, era più chiara nel passaggio di prima, andava proprio a gonfie vele. Prova una via di mezzo, Pierpa. Ti sento bene, ma probabilmente anche la vicinanza. Tu l'ho sempre usata, così dove ci sono te lo ricordi. Questa è un problema, come quella di sempre, ho usata sempre così, 12.50, ma qualche volta l'ho usata anche a 18. Prova a rialzarla, che controllo bene il mio orecchio, ma non ci sono dubbi. Di mandare le salute che me l'ha scritto su Facebook. Ma a me stavi dicendo, ho detto a tutti salutoni da Natalino che ha mandato i saluti su Facebook. Contraccambio e anche vabbè, contraccambio dopo che glielo mando io, capito? Mi hai Giuseppe, sono a quelli di là, ma se tu vado voglio vedere se mettete qui forte chiasso come sempre, e niente, Antonio, quindi grazie anche da parte mia per i saluti a coso, a Vitalino. Vitalino, ma gaffa, ok. Stasera stesso stavo facendo un po' di ordine nel cortile del negozio, stavo togliendo tutti gli espositori, tutta questa roba qua, stavo portando via perché c'era un casino nero. E c'erano tre commessi fumando tutte le tara rapidi sa sigaretta. E loro mi hanno fatto, perché tu non fumi? No, io no. Dice davvero, sì, da 8 mesi che non fumo. E questa qua si è girata e mi ha fatto, allora non rompere le palle. Ah, beh, quello è un classico, quello è un classico. Ma ah, e c'è il posto per la sigaretta, ma siete in cuffia? Cappa, io sì. Pierpa? Cosa? Sei in cuffia oppure a collo libero? Cuffia. Aspetta che mi siete, non so con chi ti sei castigato. Certo che già sono in cuffia. attaccata. E allora tu, Gianni, potevi dire quando ti hanno risposto voi quella, se con la sigaretta bella accesa se la attaccava in culo quella lì. Affari loro sono, da sarò leggianieri, stavano fumando, ma poi sai come fanno, no? Quando fumi in fretta in fretta che ti viene anche il cappuccino con la sigaretta scaldata per fare in fretta perché doveva andare a servire. E tu che fai? Non c'è. Avanti. Ma non sapevi che io ero passato dentro il fuori? Sì, quello sì, dimmi cosa hai combinato. Ma perché non sono sette redondo qua, eh? Ah, non dirmi che sei senza cuffie. Ecco là, avevo la colonia aperta pure. Bene, bene. Scusate la mia maleducazione. Se già me l'hai combinata bella Pierpaolo, adesso cambiano opinione su di te Giuseppe. Quella guarda la fotografia di chi l'ha detto. Già c'è, chissà. Scusi, no, non c'è quella. Perlomeno io non ce l'ho nei contatti. È una giustizia. Veramente bene. No, non mi interessa più. Perché tanto era solo a farti male, basta. E mi sento meglio anche fisicamente, devo dire la verità. Dica! Non so se continuare a fare il bastardo o no. Ehi, guarda, quella me l'ho legata al dito del piede. Niente, ma riprendendo il tema di poco fa, tu a sigarette come fai? Sì, io. Cappa. Quanto fa che ti aggiorno? Bene. Ma che faccio la voce che cristallina? Cosa hai scritto? Cosa hai compreso? Come quello che dici via, io fumo alfa senza fisso e faccio sempre la notte con la tizia, la mezzo, sempre mezza cristallina ed era morente, non dirò. No, non ci credo che stai fumando, verba. No, avevo volto anche 5 pacchetti al giorno. Anda benedetta, meno male siete riusciti a buttarcela con la porcheria dopo che mi avrete intasato mezzo mondo, vigliacchi. Avuto visto la pacchina di questa categoria, mi adesso non discriminare. Io non discrimino nessuno perché l'ho fatto anch'io e quindi no, non ho niente da dire, non ho niente in merito da parlare ancora. Io appartengo agli ex di 8 anni fa e ti dico che va bene così. Che mese abbiamo smesso? Detto che è stato un mese, ma è esagerato. No, è esagerato già, non te lo ricordo proprio. Abbiamo smesso, l'ultima settimana di maggio. Ma dici? Buonasera. Io ho messo 5 mesi, non è che... Natalino. Buonasera Natalino, ben sentito Giuseppe da questa parte che ti saluta e ti cordializza bene. Ciao Giuseppe, ciao Cristina. Spero che mi senta anche ciao. Perché sono in macchina, le sigarette e lui sono la macchina delle sera. Appaga. E in casa non ce la fai a farti un impianto? No, non mi sentono. Ma vedi, se riusciamo a mettere un'antenna, anche una piccola, vedi che ti intendi? Per mettere le antenne. Esatto. Che conosci conosciamo uno che piazza antenne per baracchino e che riesce a volare. E questo. Guarda, se lo vedi, se lo vedi di giorno non arresto, diglielo Pierpa. Che stavo piazzando l'antenna, si è spasimato alla sola. Ma fa cappa. Guarda, comunque in una maniera o nell'altra bisogna sistemarla. Ha un qualcosina lì a casa tua, Natali. Almeno a farti sentire. Non dico io di mettere una manto qua, un coso, però un qualcosa che ti possa permettere se vuoi dedicarti una chiacchierata di poter uscire. E tu già cosa dici? Nessuno, stiamo aspettando che risponda Gianni. Io a Natale non lo sento, non so se lui sente a me, ma io non lo sento. Se già lo sento a Pierpaolo, io già lo sento, anche a Pombo lo sento. Solo che sono in corso di città, sono in macchina. Ma mamma mia che è entrata, via io che ce ne andiamo. Attrezzati la modulazione che si fuori. Troppo vuoto. Adesso va meglio. Ciao, ciao. Ti sei sentito? E allora cosa ci racconti di bello? Niente di particolare, aspettate di mangiare, scusa. Ma guarda, si è migliorato ora. Cappa. Cazzo, mi figlio di uno. Aspetta. Ma una, due, tre, prova, prova. Prova meglio qua. Stava quasi strappando, non si capiva quasi la parola. Andavetti. Ma l'ultimo esperimento lo sai che ho fatto, ci ho messo i pesci russi nell'acqua del trupicato. Sì, quello è il pesce uno e quello è il pesce. Cappa, cappa. Sì, sì, sì. No, mi si è rotto la buccia delle, di Marcolino, vediamo come sti pesci rossi, stava piangendo e cose là. Ho tolto un po' di acqua di quella casa, gli ho cambiato, ho approfittato a cambiare l'acqua all'acquario, quando gliel'ho cambiata ho messo anche i pesci rossi, di modo che era un po' più fredda, ma poi sono abituato e stanno diventando grandi. Io sempre quello che mi hai dato tu, quello rosso piccolino, sempre, non so che anche figliato, non so se è figlio o maschio, però ho visto che ce n'è qualcuno, qualche parente che si assomiglia a lui. Cappa, cappa. E anche i mistici c'hanno. Quelli, ecco là, ma che nome è un nome chiaro, tu sei particolare, quelli stessi. Vabbè, chiamali gupi, chiamali in italiano, dai, gupi, di bistis, come li chiamano? Gupi, gupi. Comunque, scusate l'intrusione, sono tu. Buonasera, scusate per la sottolineare. Sta a parlare, buonasera Martino, quello ha portato. No, tanto io non stavo per chiudere. Stavo facendo quasi il giro dei saluti. Infatti vi saluto tutti, circolare, tutti quanti. Ce la riscontriamo nel prossimo. Ci sono tra 5 minuti, sono in linea. Kappa, vai, io lo stesso, perché mi sta chiamando mia moglie, vi devo lasciare. E mi ho sentito Tino ben entrato da parte mia naturalmente. E niente, poi se ce la faccio rientro dopo. E vabbè. Ciao Giuseppe, ciao anche Pierpaolo. Buona serata. Lattalino ha chiuso perché se no ha detto che quella lo sgrida, il telefono per sgridarlo, ha detto perché la chiami quella, tua moglie. Va bene, però già ci vuole fare l'abitudine, quindi. Anzi, scrivo, ogni volta quella lì mi dice, quella lì, ma non mi piace il bambino dentro. Pescare io sono andato 3 volte e basta, e sono andato bene. La verità, ho preso 3 orate, un sarago, una mormora, in queste 3 volte, una razza, insomma sono pescato bene, non mi sono divertito, però mi sono più tornato, non ho avuto più il tempo, perché mi sono fatto dare le ferie e mi sono operato all'occhio per non stare in malattia e non poter uscire al caldo. Mi sono operato a giugno, quindi sono trattato che grazie a Dio è andato tutto bene, la vita è ritornata al 100%, cioè 10 decimi, quindi la cosa è soddisfacente. Non lo sapevo già, non sapevo che hai avuto problemi. Comunque, tanti auguri. Grazie, grazie. No, non ho problemi grossi, era una cataratta. Era una cataratta che mi stava rompendo e avevo questa paranoia perché dovevo fare la revisione, il rinnovo della patente. E quindi fatta voleva, già lo sai che io lavoro con la patente, quindi se ti crepano i chimi sono dolori. Beh, è vero, è vero. Quando ieri sono passato le reperti che dovevo con già, l'avevo portato una lavatrice a mio padre che si è trasferito lì dalle parti vicino alla terra, diciamo. Ecco, chissà se già ne sta ancora lavorando, eh. E niente, mi sono lasciato la prova chiusa, lavori in corso e niente, e allora sono dovuto passare in una strada un po' accidentata, la vedo gli dicevo, guarda, lavorabile. Ma non me lo dire a me che ogni volta sbaglio, invece di passare la via Florina, se passo da via Bologna, dopo mi tocca tornare indietro, però lo faccio per abitudine, è proprio una cosa meccanica. Questa rotonda che devono fare, hanno cominciato, hanno chiuso la strada, che poi mi sembra anche una mezza fesseria, perché potevano lasciare una corsia libera per fare transito a senso unico alternato e via. Invece hanno esaurito tutto, addirittura hanno espropriato un pezzo di cortile al palazzo che c'è via Bologna. E probabilmente è una rotonda molto grande che devono fare, molto grande, che racchiude forse una, due, tre strade. Ho capito. Sì, siamo rimette. Marcolino sa cosa fa, si stampa, se ne va sul sito di Drago, come se lo stampa. Dobbiamo stampare, prendiamo il foglio d'allarma e lo mettiamo, perché anche Marco era così prima. Alla fine mio socio l'ha fatto una cosa, il calendario vecchio gliel'ha dato e lo disegna dietro. Dormendo. Boh. Guarda, questo di più. Ma cosa ne dai? Argento vivo da mangiare. Ma già, sono vedi guarda, è come quando ero io piccolino, marco, forse va bene oggi lui che è buco, che lo faccio la insieme. E io si accalma, sì, anche Marco era così, quando era piccolino, sempre facendo, saltava, sfasciava quello, tutti gli oggetti li ho dovuti togliere, perché sfasciava tutto. E insomma, poi già crescono e già buono di capo, là. Allora, ascolta, che faccio una prova. Dimmi se migliora così, aspetta. Oh. 1, 2, 3, prova. Ora si è migliorato un pochino la radio, o se si è abbassata troppo? Si abbassa, era meglio prima. Capo. Non è troppo bassa. L'altro passaggio era notevolmente migliore. Antonio, ci sei? Sì. Qua? Non rispondo. Che appagati. E quindi questo acquario lo stiamo curando o no? Sì, guarda, adesso ho riportato in posizione come era prima, tu mi confermi se è così? Guarda, diciamo che si è un po' ripopolato, ogni tanto ne escono, muoiono, però sempre nella media è ben abbondata. È bello perché sono piccoli, sono vivaci, sono colorati, mi piace per quello. L'unica cosa che faccio io, una volta ogni due settimane, ripulisco il tutto, è una cosa. Ti ho capito tipo perché c'è il tuo figlio a parlare. E te? Tanto musicale su Paolo Radio. È squillante, tanto ti abbiamo chiamato e non hai risposto. Certo. E forse mi sono un attimino allontanato perché le borsette sono andate a prendere l'acqua. Ma comunque buonasera Dino, forse non ti ho salutato. Vabbè. Non succede niente, certo. Ma che acqua? Sono andato un attimino già a prendere l'acqua, quindi ho dovuto un pochettino abbandonare, perché poi non ne avevo qua e sono dovuto scendere giù a prenderla, la cantina là. Cappagagli, vabbè, non c'è problema. Stavo dicendo, Titi. Sì, io invece ho messo scalari. C'ho scalari, poi c'ho dei pesci da branco, tutti gialli, molto belli, sono diventati grandi, sono molto belli. In più c'ho due pesci rossi, uno albino e l'altro che è proprio rosso, senza nessuna screziatura, però è rosso, è vivace, è bellissimo. Un colore bello rosso proprio, rende un bel. E poi c'ho fulitori che sono diventati enormi, c'ho i butia, non so se li conosci, che sono i bicoro, che sono quelli che hanno due colori, pesci pagliaccio, là. Lui viene uno, allora, non ne ho tre, quelli che puliscono il fondo, due, lo squaletto, quello sì, ho capito, quello nero e rosso. Ma quello nero magari ha qualche puntino di bianco così, però è un po' caventoso, ma c'è da più dentro là. E non è molto grande. Ah, il pesce ventoso, ho capito. E poi c'ho. Vabbè, c'ho molti pulitori, ne ho 4 o 5, che sono tutti quanti diventati di dimensioni grandi, molto grandi come dimensioni, saranno una decina di centimetri. Anche colorio io, ma che colorio io quello che ho ventoso. L'altro invece pesce spazzino, ne ho di due qualità, uno che sembra etichetto e l'altro invece nero e rossiccio, dai, ciao. Sì, sì, ho capito quale. No, io non ne ho più comprato la frittata, non sto più comprando niente. Mi sto arrangiando con quelli che ho, non fanno figli quelli che ho io, perché sono pesci che non fanno figli, però diciamo che vanno bene lo stesso, dai, stanno diventando grandi, sono di quei pesci che durano e diventano grandi, quindi danno anche una certa soddisfazione. Ma i prossimi che devi mettere, devi mettere i bistis, che sono molto più facili da allevare. Ho venduto tutti quanti i discus, li ho venduti tutti a 85 euro l'uno, li ho tutti venduti, perché prima che morissero, perché l'ho già grata. È fatto il fare allora. Ma io invece, Antonio, se sei d'accordo, mi sono fatto un piccolo allevamento di conigli, perché quando sono grandi, che appunto a lui e alla sua famiglia. Maviglia, non si crea né un verde. Ah, già, ho messo, ho visto che l'anno scorso ho iniziato con tre conigli, due femmine e una donna. No, femmine e un maschio, scusa. Non so se ti ricordi quel fatto che ha fatto l'anno scorso, praticamente mi ha cattato un maschio e una donna. E mi ha tenuto una in vita proprio così, moribonda, diciamo così, però era incinta. Mi troverà una buona spacca, speriamo che tenga. Ha tenuto e mi ha fatto 9. La 9 li ho fatti accoppiare e sono arrivato una trentina. Poi li ho dovuti un po' selezionare, nel senso che un regalo uno, un regalo l'altro, una padella qua, una padella là, e adesso ne ho una quindicina. E io vado bene. Vedi, sono, che colori sono? Ma guarda, mi hanno dato un paio, mia cugina mi ha dato un po' bianco e un grigio. Allora, mi ha dato la bianca di quella, proprio la carne, quella grossa. Adesso questi bianchi, poi ne ho un paio neri e uno che è color rosso mattone, proprio. Ma sono enormi, sono questi qua, mi ha dato ultimamente, mi ha dato due, ultimamente uno bianco, uno rosso, che minimo, adesso come adesso peseranno 4 kg l'uno, eh. Lo so, l'ha avuto anche Antonio, allora Antonio questa amica lui era senza lavoro. È andato a Cagliari alla fiera e si è comprato due conigli d'angola, tutti e due bianchi, che saranno enormi, sembravano due cani. Quelli non li ha mai uccisi, li saranno morti da soli, perché quelli se li ha tutti qua a mascotte, se li ha portati a casa, il padre gli ha detto, ascolta, se abbiamo il posto, perché non ci facciamo un capannone e lo facciamo a livello industriale, facciamo una cosa grossa? E ha detto, vabbè, papà. Ha preso, ci ha messo un po' di soldi, il padre ha fatto questo capannone e ci aveva tutte le mangiatuie, la roba scendeva da sola, capito? Come loro mangiavano scendeva il mangime, l'acqua, e sotto ci mettevano le cose per raccogliere lo sterco, la cosa la mettevano in campagna, in mezzo alla terra, poi la facevano seccare, quando era seccata la spargevano nella terra per concime, no, loro utilizzavano tutto. Beh, ti dico che non è diventato ricco, però ho guadagnato un bel dinero, e ha fatto un bel risultato a questi conigli, era un bel contento perché si faceva più che lo stipendio e andava bene. E ci aveva le fattrici da una parte, i conigli piccoli dall'altra, e i conigli da monta dall'altra parte, insomma. Ma se li metteva, prendeva il coniglio, la metteva dove c'erano le fattrici, prendeva 5 minuti, trrrr, già gli scicchi. Non so, no, io non lo posso fare a livello industriale perché sembra così, ma ci vuole tempo, pazienza, ci vuole un po' di attrezzatura per la pulizia, perché vogliono curarti, è difficile come animale, però diciamo che per il fabbisogno familiare sono abbastanza contento, perché quando lo voglio vado con l'ammazzo e me lo mandico. No, per quello va bene. Ma c'è ancora cosa di col tuo, questa colonnina? C'è il capannone, ci sta mettendo il trattore sotto. E praticamente lui poi ha trovato il lavoro, è entrato a carica, ripeto, depurazione delle acque, delle acque rifiute. È entrato lì a lavorare e adesso è con la barona. E quindi cioè, aveva un certo guadagno e ha mollato, capito? Non c'era più. Però c'aveva una bella. Una bella cosa industriale, c'era un capannone con tutte le i silo del mangime che scendeva, man mano che mangiava lo scendeva, lui li riempiva poi quando voleva ci scendeva, quando non ne aveva voglia non ci scendeva in campagna, ma la cosa continuava a andare sempre. Anche una persona che conosco io che ci ha preso due conigli da due sono diventati un bel. Allora faceva così, se le vendeva 10 euro l'uno. Sì, ma va bene. Diciamo che a me non ho fatto la richiesta della visita, ma non interessa a me perché non voglio incrementare, capisci? Cioè, voglio dire, il posto dove ho questi quattro animali, chiamiamoli così, non è grandissimo, quindi è inutile copiare per dire 3, 4, 5, 10 fattrici e poi non avere il posto per poterle detenere, capito? Io ne faccio copiare due per dire al mese, fa che quelle due mi rendono, adesso ne fanno 8, 9, magari due muoiono, cioè sono sempre a giro, capito? Mentre invece al contrario di un mio cugino che lui ha un posto quanto il mio, ha fatto accoppiare, mi sembra, 4 o 5 fattrici in giro di poco tempo, ne aveva 50, non sapevo da metterli, quindi magari li ha mappati e messi in freezer, ma quando ancora non erano nella miglior produzione, perché quando la mattica il coniglio per dire cosa un chilo, cosa rimane, non ti vanno, cioè, perlomeno. A me non credo che renda un chilo di coniglio, poi io vado a cucino che è già quasi 2 chili, allora vado a fare la pentolaccia, c'è qualcosa da mangiare. Che pagato per fare? A te stavo dicendo, cosa vedeva a mangiare di erba? Io gli sto comprando il mangime crudo adatto per loro, però in più mi sono appoggiato a un'azienda che mi conosce ormai da tempo e mi dà il fiero, l'erba medica, questa roba qua, quindi già un po' su quello, non dico che risparmio, però una bella di fiero, per dire, vanno 5 euro, è una bella che pesa 40-50 kg, mi dura un mese, con 5 euro loro quando mangiano per dire con l'erba medica come che fanno mangiare la mangime, al contrario del mangime vero e proprio del coniglio che mi costa per dire un sacco, mi costa 10 euro e non mi dura un mese, mi dura 15 giorni, 10 giorni, dipende da quanto ne avrai, capito? Che pane duro da mangiare, Antonio gli dava pane duro, non lo sicchiava né se ne mangiavano un bel pane duro. Lui lo dava, gli dava pane duro, gli faceva essiccare l'erba che tagliava, lo faceva asciugare e poi gliela dava. Sì, sono d'accordo. Adesso per dire, ultimamente al ristorante un po' di pane non sta volando, però adesso hanno cambiato anche tipologia di pane, anziché fare. Prendere il panino classico, il panino normale, stanno prendendo quelle fette, pane tagliato a fette, diciamo, quindi magari mi viene un pochino più male a mangiare, ma se no il pane già, quando ce l'ho glielo, giustamente non è che lo trovi, o va a comprarlo, allora anche una spesa, anche col fattore lì, ma se troveranno per credo. Ma quelli di Antonio erano così saporiti, buoni, gli dava anche il mangime, no? Perché lui, ti ripeto, a volte non ci scendeva in campagna, però per mangiare man mano che mangiava non scendeva, capito? Quindi il mangime glielo riempiva sempre. Però gli dava anche erba, tutta pane puro, tutto quanto, quindi questi coni erano così saporiti e buoni, guarda, erano una meraviglia. No, no, non so, lo so. Arturo, e tu, a te ti piace? Ma sì, qualche volta l'ho mangiato e ti dirò che mi piace, mi piace. Non è vado matto, però se c'è un pezzo lo mangio volentieri. Ma guarda, io adesso non per dire, però intraprendere qualcosa per far via, chiamiamolo così, perché c'era questo mio cugino che mi ha convinto, ma metti tu, prendo io, te lo devo io, vabbè dai, mettiamo. Allora io l'ho comprato e come dici tu, già, secondo me il sapore cambia dal giorno alla notte, perché adesso vabbè, non è che volevo rispettare quello che ho comprato, però ho notato la differenza. Sì, sì, c'era differenza, come lì sono levato sulla mangima e allora il sapore è diverso. Quello che a me mi dava Antonio, a parte che Antonio mi dava anche sotto banco le macellerie, apri fatti, ma tu devi vedere come li confezionava, tutti bene, col nylon, tutti belli coperti, eccetera, eccetera. Li dava sotto banco così, alle famiglie che conosceva e cose, ma ti dava un prezzo buono, e mangiavi roba veramente che va buona però, Sì, sì, sì, ma per quello, guarda, io adesso per dire, c'è mia moglie che non la mangia, perché lei, avendo avuto il padre cacciatore, non mangia né selvaggina né nulla. Al contrario di mio figlio, che quando faccio per dire, perché lo cucino io, a me piace cucinare anche, no? Lo faccio il cinghiale, faccio il pollo, lo coglie la veloce, si lecca le dita, non le braccia, perché non è ancora, però lei invece nulla, non li ha cresciuti e forse si è affezionata, non lo so, non, quando era a casa della madre, perché gli avevo dato due, e ne teneva in una gabbietta, li ha fatti grandi, più erano troppo enormi perché sono quelli da ingrasso, me li ha restituiti e li ho ridati a un mio cugino che me li aveva dati, capito? Però non le viene niente da mangiare, non le piace proprio. Mia figlia è così. Mia figlia non mangia né carne di cavallo, se glielo dici, non mangia coniglio, alcuni animali non li mangia. Proprio perché dice che il cavallo è un animale troppo intelligente per ammazzarlo, ha queste idee qua, c'è poco da fare, allora noi gli diciamo che è altra carne. Che carne è questa? Ma non lo vedi il vitello, sicuri siamo, sì è vitello, buono però, è anche saporita questa carne della cavallo, si usa è da guai. Oh Gianni, come sta uscendo questa radio? Bento. KK, questa è l'altra. Già lo sento, sì. Già lo sento. Il grande. K, questo è il grande. Pagà va bene. Hai capito? Bisogna fregarla per mangiarla, se no non ne mangia. Se fa pollo integrale, per dire l'altro giorno ho fatto anch'io cucino oggi, mi piace anche a me cucinare, ho fatto il pollo con i peperoni, non so se l'hai mai mangiato. E praticamente ha visto, ho fatto tipo spezzatino a pizzico e non lo voleva mangiare perché pensava che era coniglio. No, che a me non piace. Aspetta che le metto giù qui a questo pilastro, se no. Sto cercando sul computer giù qui di spalle, ma che sennò è dove, non dormi, Un matto. È un drago, se li cercava da piccolino, si cercava come si faceva, è una cosa allucinante. E adesso lo stesso, si stampa le cose, va sui giochi, gioca, fa, insomma, non si può fidare il computer in mano, si scarica la roba. Sì, ma quello anche lui. Lui. Secondo di. Marta addirittura da quando non sapeva leggere riusciva a trovare, a scrivere lo stesso, capito? Non leggeva né niente, eppure riusciva a fare le cose, te ne immagini? No, lui invece per dire sa che la pagina iniziale è per dire giochi di Spider-Man, no? Quando schiacci la G escono le... aspetta, io messo. Quando esce la G per dire sa che sono in giochi e quindi schiaccia la G e si cerca lui. No, per quello già c'è bravo, per quello già si aspetta. E apprendono subito la piccolica. Una volta la difficoltà mi ha detto papà, ma devi fare così, devi fare così. Tu aveva ragione. Prendono subito, poi guardano come facevamo noi, guardavano e subito apprendeva, memorizzano subito. Sì, ma dopo lui già poi appassionato su questi giochi qua, ho ben temi, mamma mia, tutti si rifatti. I bambini tutti quanti così sono, ma con la vita che ha perso l'intento di essere, ha fatto il dentro di zio da pure adesso. Siamo andati a Città Mercato, andiamo da Bricco Marconi che ci prendiamo il gelato, vabbè, andiamo da Bricco, lì dove c'è Consul McDonald's, lì andiamo a McDonald's e ci prendiamo il gelato, andiamo, ci sediamo in macchina, anzi no, prima siamo fermati su quella panchina che c'è fuori a mangiarci il gelato, poi siamo andati in macchina, stavo per mettere in moto e gli ho detto Marco, ma dov'è Nintendo? Papà, non c'è Nintendo! Guardo bene in macchina, prima comunque partiamo, andiamo subito dove abbiamo preso il gelato, lui l'ha appoggiato per prendere il gelato e si era dimenticato lì, con tutti i giochi dentro, fotografie nostre, di tutto c'è. Figura. No, ma io dietro stesso ho lavorato a mia moglie tempo fa per il suo compleanno, no, per quei giochi di, come si chiama, quello di intelligenza, quello che stavano pubblicizzando. E la cosa di lui adesso, magari, che ne so, si mette a disegnare, si mette... però è Torino, eh. Marco Capo fa anche le voci. Faceva la voce, prima da donna, poi da maschio, poi da orco. E come lo fai? Ma è sempre in quello gioco lì. Nintendo DS, non lo so, forse un'opzione, e lui già se lo manovrava bene, stava sempre con quello, se lo portava anche a letto, ma non per dire, non se teneva in mano. Sono io, quando usciamo, per dire che andiamo al mare con la ruota, allora, per tenermi un po' occupato, allora glielo do, poi facendo la televisione. Non è proprio preso ancora, perché magari non ha capito proprio il vero senso del gioco. E lì ne puoi mettere tanti di giochi, non è che siamo solo, ne puoi mettere parecchi. E comunque è un bello, è completo, sembra quasi un PC, ci sono belle cose. Mi è dispiaciuto un po' perché ne avevo comprato anche il gioco nuovo, ce l'ha lasciato dentro, cazzo. Anche quello l'ho pagato 80 euro, mi pare. E allora, non è quello già. Cioè, voglio dire, già poi il componente in sé, più devi spendere 70-80 euro di gioco, per le varie ti rude, non è che... Io sono, volevo comprare qualche gioco, ma non so ancora che gioco comprare, perché essendo piccolo lui non è che... è appassionato di Club Nintendo o questo Spider-Man, devo trovare o qualche gioco simile o qualcosa, perché anche il gioco della macchina, che c'è il tipo che esce dalla macchina, fa la pappina e picchia quello che c'è entrato, bello, bello. Lui ma non lo sa fare, capito? E deve prendere qualche cosa che lo appassiona adesso, poi man mano col tempo arriverà Dragon Ball, getta, chi si che dà. Allora. Perché Marco ancora c'ha 9 anni, ancora queste cose ci gioca, c'è anche la PlayStation. Ma guarda, io ancora la vecchia PlayStation, la prima che uscì, uscita, addirittura ci fatta. Quando l'ho piazzata, siccome i giochi poi vabbè sono tutti masterizzati, quindi un po' hanno perso, un po' magari non leggeva, oppure la maggior parte non andavano bene. E quando c'era qualche gioco che tipo Tekken 3 che le piaceva, si appassionava, e poi il bello non è tanto metterlo, ma è quanto toglierlo. Perché bisogna dare dei tempi, bisogna farli fare mezz'ora di gioco e poi mezz'ora deve giocare lui con le altre cose, invece, perché se no stanno sempre attaccati alla PlayStation, poi li prende male. Ma è quello, a me è lo stesso, quando era uscita quella lì, televisione, bene grafico, effetto surround, la balle male, mi taglio un buccio, io allora ero una ragazza, mia moglie, avevamo le ore attaccate alla televisione, non è che... Sì, prende grandi e piccoli, infatti, è come il computer, io prima stavo sino alle 3 di mattina, sempre girando, facendo, scoprendo, chattando, insomma, poi mi è passata la gara. Ma guarda, io non so, forse perché non ho tempo a disposizione, io non uso né Facebook, né non chatto, non ho... Ma giusto perché tanto mi metto al computer un attimino e arriva lui, basta per me, allora perdo un pochino la pazienza della serie che ti mette giù, che tratta di Ludo e ciccia, giusto quando magari devo fare qualche ricerca che mi interessa, allora gli metto un po' il tono sul severo, però non sono il classico tipo che rimane ore e ore attaccato al PC. Io guarda, pensavo di risolvere a casa, ne avevo uno e dovevo usarlo io, dovevo usarlo Manuela, dovevo usare mia moglie, insomma, si doveva fare la fila. A un certo punto mi sono rotto le scatole e ho comprato un altro, di modo che ho detto si dividono le cose, invece adesso uno è toccato a mia figlia e una a mia moglie e io sono sempre fuori. Una cosa già, quindi tu portate le tutti in macchina, non dici niente a nessuno. Tre migliaia di lavoro che travaglia per il computer, già sono due, sono troppi. No, io lo uso quando esco dal lavoro, perché mia moglie fa magari altre cose, cucina, fa così, io me lo uso un po', mi lavo e me lo uso. E poi basta, il sabato notte sino a tardi, quando se ne vanno tutti a letto, allora io prendo, e me lo prendo e mi destreggio un po'. Forse perché io non ti ripeto, non ho il tempo a disposizione, anche perché ogni mattina mi alzo alle 6:20, rientro tardi tra cenare e stare un po' col bimbo e sto qua, allora non è che mi venga la voglia di starmi attaccato al computer. Poi adesso stiamo prendendo il vizio, oggi è stato una giornata, diciamo, nel senso che non siamo partiti, se no noi di venerdì sera per esco dal lavoro, mi faccio doccia, preparo la roba con pazienza, non è che stiamo dicendo che partiamo la mattina, figurati. C'hai proprio la roulotte oppure il cap? No, mi ha preso, ho fatto cambio con quella che avevo, che era troppo grande, e con la macchina mia, diciamo che era troppo pesante. E ho cambiato da un 440 a un 430, però è un'area diciamo ben accessorata, quindi le cose che fai con il camper lo fai con la roulotte, con una differenza già, che voglio staccare la macchina per andare a comprarmi il giornale o prendere le tappe, tappo la macchina e la suite. Invece col camper molte volte cosa succedeva? Che soprattutto in periodo estivo se ti spostavi eri fregato, tanto è vero che noi, a noi quest'anno, perché noi siamo io e mio cugino che abbiamo la stessa roulotte, andiamo allo stesso posto, ci mettiamo uno attaccato all'altro, quindi prendiamo abbastanza posto, perché io mi lascio la macchina attaccata, lui invece mette la roulotte attaccata alla mia e la macchina l'attacca e la mette di punta, no? Però prende, che ne so, a occhio e croce 25-30 metri di lineare, capito? Contro quei 3-4 metri che prendono il camper di punta, hai capito cosa? E ricade lo spazio normale. Vabbè, se va bene così, dice. No, lo stavo chiedendo perché io mi ricordavo che tu avevi un camper e te l'ho chiesto per quello. Ma quindi la passione si sta aumentando. Magari il camper, no, allora diciamo la verità, che il camper lo stiamo cercando, però è uno più buffo che altro. Quindi ho preferito prendere questa roulotte, cambiarmi la macchina, mi ho preso un fuoristrada per poter tirare questa roulotte, perché mi stava venendo anche un po' pesante con l'altra macchina che ormai era vecchiotta e stava tirando il cuoio anche lì. E niente, sto bene perché ho preso un diesel, un 2000, non mi dà problemi, sono camminato anche su sabbia, però non l'ho attaccato, quindi ti puoi immaginare. Va bene. Ma ci sono ancora questi posti per campeggiare senza pagare o no? Ma guarda, io ho fatto tutta l'estate a parte le ferie che mi ero fatta a Santa Teresa, tutta l'estate l'ho fatta lì a Padrona. Padrona appunto lì, ci vuole parte lì. C'è un posto dove paghi 5 euro al giorno, poi vabbè se ti metti d'accordo con il tipo ti fa anche di meno, che lì hai ti mano, però la rottura del scatto è la domenica sera che te devi andare, che c'è un casino di traffico e uscire lì è un po' difficoltoso. Ho visto, conosco quella zona perché a Stentino ci bazzico parecchio per lavoro, quindi ci passo sempre. Ma io guarda, ero proprio venerdì sera e domenica la passata di acqua buona, è tranquillo e è il posto, ormai noi ci conosciamo quasi tutti, diciamo, e siamo bene, magari quando c'è tempo cattivo che devi stare un po' chiuso, però insomma, già abbiamo passato sempre più giuri. E vabbè, ti sei ingrandito, dai, con la roulotte, con la macchina nuova, e vabbè, meglio così ti, che mi diceva sempre. Già, diciamo che la macchina è una cosa che dovevo fare, perché ormai mi stava abbandonando, ma la cosa secondo me non è che ho usato buono e mi ha soddisfatto, mi piace quella macchina, ho fatto già qualche fuoristrada, ma ho tolto qualche soddisfazione, quindi poi per tirare non c'è problema, quindi già va bene. Cos'è per lo Pajero? No, è un Freelander. Già va bene. Cos'è il Toyota Freelander? No, il Freelander è Land Rover. Un bomba. Bello, bello. Sì, ho capito quale. Adesso volevo dire leggere tutto io. Ma noi abbiamo preso lo stesso parlantincino dove faccio servizio di ambulanza. Abbiamo preso un Land Rover e adesso ci abbiamo il Nissan. Abbiamo preso la seconda mano tutti e due, vanno benissimo. Il Nissan era di un pastore, ci metteva il latte, di quelli col cassone dietro, quindi ci abbiamo messo il modulo antincendio dietro e va benissimo. Ti dirò che ci renderò, perché quello ci stanno durando abbastanza. Chiaro, già un sacco di forza c'è Land Rover. Ma tu, cioè, devi pensare una cosa, che questo qua, ormai voglio io, il TD4 è un 4x4 perenne, è sempre in forza, non hai la possibilità di mettere due ruote motrici, ce l'ha sempre 4x4. Ma poi è una mobilità allucinante, guarda, sto cercando di conoscerla, adesso c'ho, diciamo, 3 mesi, di qua 2 mesi l'ho usata più mia moglie, perché era senza la macchina e quindi usavo l'altra, quella che avevo io, già la Toledo. Quando andavo a lavorare, andavo con lì, poi con la sera se non volevo uscire, andavo a sto cercando di conoscerla come stabilità, come tutto, c'è un abisso tra una e l'altra, non posso fare una differenza, è abissale. Land Rover è sempre stata una macchina che ha molta forza, anche il Defender, io l'ho visto nel niente motore e tutte quelle cose lì. Cioè poi è stato anche usato, Gianni lo sa perché anche, è una macchina che ha molta forza, cioè qualunque cosa di attacchi bururugami te lo traina, c'è una forza allucinante. Ma guarda tu, io sto attaccando l'orologio che è un 4,30 m, non è grandissima, però pesa intorno a 900 kg trainandola, senza contare la roba che ci metti dentro, le bibite, l'abbigliamento, le sedie, il tavolo e quant'altro, quindi relativamente fra che siano 1100-1200 kg che stai traendo, mi si è scoppiata la ruota della roulotte sulla canale. Te l'ho messo neanche ancora così, io continuo a me andare, a un certo punto guardo lo specchietto e vedo, sai, il circo quando girano che c'è qualche cosa, una roba di strada, vedo fum attaccata la ruota, ma tu pensi che faccio la ruota quando ho la ruota? Figurati. E beh, ma quando buchi così c'è la ruota del cambio. Sì, però vabbè, lasciamo perdere, io sono un tipo un po' strano, quando vado ai posti non è che mi metto a guardare nei minimi particolari tutte le cose che, cioè non vado a pensare, e se buco cosa succede, questo e quest'altro, niente. È successo che la... Sì, la ruota scopa ce l'avevo, anche se la sgonfia però ce l'avevo. Ho dovuto chiamare mio cugino, farmi portare il compressore, gonfiarla sul posto, montarla lì e riprendere il viaggio. Sono cose che ti rimangono, cioè mi piace anche raccontarle perché sono cose finite bene e ti rimangono. Cerchio ce l'ha buttato via. No, il comportamento sì, perché ormai non ce l'ha più. Il cerchio sì, era un po' consumato, però è da utilizzare come roba di scorta. Sono cose che succedono, ma sennò che interrompono, quando stai andando per divertirti, per stare un po' tranquillo, ti succedono queste cose, sono cose che ti rompono. Tu pensa che 2 anni fa siamo andati a Cugnana, allora con la Toledo, siamo andati a Cugnana con questo lotto che era un 4,40, le gomme forse, non voglio esagerare già, ma avevano forse 30-35 anni, e ho detto, boh, vabbè, ora me la spacca, se la spacca vuol dire che lascio la lotto lì e ce la via pure un po' più là. Non fai tutto, eh. Il tuo cugino mi fa, no, guarda, uscire con te, guarda, è un collega, ti rendo vivo. Mia moglie è così come te, mia moglie, non devi essere pessimista, non ci devi pensare a queste cose, però se c'è la cosa, visto, te l'hai mandata da solo. È vero, perché io non parto con l'intenzione di... Allora, le cose secondo me, io credo che la maggioranza delle volte debba andare sempre bene. Giustamente c'è il diavolo, come si suol dire, però no, purtroppo se ci pensi è peggio. Chiamiamole così, è molto ottimista, invece io sono più realista. Ci penso a queste cose, non sono di quelli che sono anche assillanti, però nelle minime cose ci penso. Prima di partire controllo l'olio, tutte queste cose qua, il liquido, c'ho sempre un bidoncino di liquido al radiatore, uno di olio, sempre appreso nella macchina, tutte queste cose qua, le attrezzature. Sì. Ah, però con tu, senti questa qua. Siamo andati a Cagliari a ritirarla questa rosa, perché l'ho creata via internet. Io l'ho ritirata su internet, ora di Palermo. Ma come vanno in barcata? Vanno in barcata per Cagliari, quindi devo scendere a Cagliari a prenderla. Sono sceso io, mio figlio e mia moglie, con la Toledo. Tranquillo, già il viaggio era, penso che c'era un freddo cane, senza riscaldamento, vabbè. Lo faccio qualche coperta in più, ci prendiamo, andiamo a Cagliari, facciamo colazione. Ma io sono in macchina, non vado a fare colazione. Abbasso lo sguardo, è vero, il liquido del radiatore, che praticamente non era più del colore originario, era color ruggine. Un lago in terra, tu anche tu mi ci ha rotto, porca miseria. Vabbè, ho fatto finta di niente, non ho detto niente lì. Mi ho fatto colazione, siamo parcheggiati al porto, apro il cofano, ho detto, ma te lo stavo dormendo perché e mio cognato mi ha detto, mi raccomando, ora arrivo alle 6:20, quindi tu fai che sia alle 6 lì, così te la prendi e riparti per Sassari. Ho detto sì, non ti preoccupare. La nave ha avuto un piccolo ritardo e praticamente è arrivata alle 9:30, 10:15. Poi è successo che io ho controllato il cofano, ho aperto il cofano, non vedevo niente di strano, ho messo l'acqua, a prescindere da dove c'era l'acqua, però avevo un 2 litri in macchina di acqua, ho messo l'acqua e vedo un tubo in ferro, addirittura un tubo in ferro tutto marcio che perdeva a zampilli. E tocca, cosa faccio adesso? Cosa faccio? Ma la toccava appena appena, c'era questo tubo, tracco, mi si rompe in mano. Non lo immaginavo che ho dovuto fare. Se è entrato un pezzo di tubo così, cosa hai fatto? No, quella pezza, no, la conoscete senz'altro, quella pezza di componente che fa acciaio, no? È un bel pezzo, se no adesso cosa faccio? Le taglio il pezzo che veramente non mi serve, ho bypassato il radiatore del riscaldamento, tanto un bell'altro, gli ho aggiunto un tappo di sugo di spumante, e poi ho dovuto fare quella pasta di componente, l'ho dovuto fare tipo un tappo da questo a questo tubo in ferro, l'ho fatto asciugare, l'ho attratto, ogni 50-60 km era in città e mi bloccavo per mettere un po' di acqua, perché l'acqua scaldava di più. Schiappa la sarda, però vai, già, piano pianino che ci sei arrivato a Sassari. È certo che è un casino, quando ti ritrovi così, cioè, che devi fare soprattutto cosa, è un casino nero. E chi lo prevedeva che si rompesse? Grazie a Dio ti fa due palle così, perché poi sei nervoso, stai sempre pensando che... non so, non posso capire, rompe veramente le scatole. E da quei geni due passi. Sì, ma infatti poi non è che potevo dire chiamo a quello che faccio trenare, no, sono due metri chilometri, quindi meno male, mi devo arrangiare. Diciamo che un po' di attrezzatura in macchina ce l'avevo, quindi ho aperto la cassetta magica, ho dato una trappa e te già arrivo a Sassari. ci danno in carica te l'avrebbero cambiato. No, allora è di domenica, sto chiuso. Cazzarola. Lì non fa nemmeno a mettere una pompa o una cosa perché ti sciuglie, passa acqua calda. Allora, ho dovuto praticamente tagliare il tubo e attenderlo, in maniera tale che l'acqua rimaneva al motore e poi per passare l'altro tubo che andava al riscaldamento. Sono usciva fuori e mi sono tutto. Santa Rosa, sono esperienze che sono dei lavori che fatti con altre persone che ti rimangono impressi e poi li metti in opera quando hanno corrente. Vabbè, io invece una volta mi si è rotta la cinghia trapezoidale e manco male proprio una cazzetta vicia, sono andato veramente a chiederla, è bella nuvata questa calza da donna, e ho dovuto farlo così. Sì, caricava poco, ma già ci sono arrivato lo stesso a casa, anche se non si caricava la dinamo, e allora era la dinamo, le macchine, e praticamente le luci si spegnevano, un casino era. Ah sì, la cinghia del carburatore. E' quella che fa anche raffreddare la macchina. Non è proprio Rigori è insomma un po' più difficoltosa a metterla in fase ballevale, ecco. Una carta del genere. Ho sbagliato io, quella lì era la distribuzione. Ho sbagliato io. Vabbè, comunque me l'ho arrangiato così con una calza vecchia che mi aveva dato una signora produttore, gli ho detto se ce l'avevo, ho chiesto la cortesia, la produttore già se è salito così. Ma per dire, per averlo sentito dire lì l'ho fatto, perché se no non lo sapevo. Sì, aspetta. No, più giù, ma ti l'ho aperto. Quell'altro, qua, eccolo lì. L'altro più su, uno, eccolo lì, schiaccia. Ma non lo sento anch'io, quello della cappa, giustamente è sul alternatore per fare, per caricare, per fare, ma l'altro è difficile aiutarla. E l'altra tipo un cavallo legato, che se ne succede una cosa del genere. E gli auguri, vedrò che la cinghia di distribuzione ti bicia tutte le valvole, tranne il motore fire, quello non le piega, si rompe e basta, e rimane a piedi. A me mi era successo nella Toledo, che praticamente ero in discesa, non avevo guardato, ho detto ma non avevo la macchina in mano, tranquillo, devo prendere una curva, non mi si chiude la macchina, è lo stesso. Ah, io vabbè. Ma praticamente c'è una cosa, c'è la distribuzione, appunto, non manco la tua e devo riparare il motore. Non si usava manco una, quando è così. La pesata ne è bucata, e le cambiano le valvole, la portano in rettifica, molti se le cambiano loro, molti la portano in rettifica, poi fanno la fianatura. E via. Certo, fa un bel di danno quando si rompe la cinghia. Allora tu, questo amico mio che c'era la marea, se siamo vero, è andato a 100.000 km per 110 mi pare che ne aveva, per cambiarsi la cinghia di distribuzione, dice no, questa qua fa fino a 140, roba del genere. Oh, ma cudito, la di Dabui mi telefona, mi fa già, ascolta, sono in via di Sicilia, dimmi già cosa c'è. Mi si è fermata la macchina, andavo in moto e fa il rumore di ferro, ho detto boh, non la mettere più in moto, lasciala qui, sto vedendo io. Sono andato con la macchina, faccio un giro di chiatto, basta, da dove camminate? C'è, mi si è fermata nella curva dove c'è il garage della polizia, dove c'era. E sono appena appena avanti perché era in curva la macchina, tutte le facciate, tutti i rodi. Queste qui sono le valvole, sono puntate poco si intende. E ho detto al vino, se sono andato, dice alla Fiat, beh, lo sai che è tornato alla Fiat, gliel'ha detto, e se ci sono negati che deve aver detto così. Chiaro, no, no, non bisogna mai farla arrivare a quei chilometri, sempre prima, ma fa un cazzo, tu prendimi e fai, tu mi prendi e metti la cinghia nuova, appunto, perché è così, cioè, bisogna farla sempre prima di quei chilometri lì. Un conto è che in Aputi c'è un motore fire perché non si piegano le valvole ed è sicuro. Cioè, cambia i bussi invece, è molto rischioso, anche il timone tutto, cioè sono a quelli di 600 euro, alcune macchine pure 700 euro, anche che ne avevo bucata la bersciata, te l'ha giudito, ne avevo bucata la bersciata, bucata la chita, fatta spianare se ne ha bisogno, cambiate tutta la sella delle valvole perché si piegano tutte, qualcuna ne rimane sana. Poi ho preso, rimontato tutto, messo la cinghia nuova, messo in fase e via, cuscinetto nuovo e via. Sì, già, è successo a me, ho dovuto fare, avevo la Golf, ho dovuto fare la qua, ho fatto quel lavoro che stai facendo la tua. Sì, già vero, sì. Diciamo che non lo so fare, invece, ma lo garantisco, la cinghia ho ricambiato 80.000 chilometri, la 60.000 chilometri l'avevo cambiata. Se la devo cambiare a 180.000, perché l'ho cambiata a 110, ho 140.000 chilometri. Magari sì, perché filtro della nafta, quella roba lì, lo devi cambiare. Questo non ho, vabbè, adesso ho chiesto a un amico mio che lavora lì proprio alla Lanzarote perché è meccanico. Infatti ho detto, ti fa la cortesia, guarda il numero di paglia, guarda cosa è tagliato. Ho detto, non ti preoccupare, ha fatto 120.000 chilometri, vabbè. Quindi abbiamo ancora 20.000 da fare, quindi a 140.000 lo riusciamo. Ha pagato. E io a 180. E vabbè, ma la cinghia la cambi così o la cambiavo ogni 50.000, ma era esagerato. Dice che quando la toglievano era ancora nuova. Sì, è vero. Io vado a prendermi un digestivo che sono ancora in fase di digestione, così sono di... Dico una cosa, meglio spendere 100 euro che spenderne 800.000. E non so tanto, solo il kit costa più di 150 euro. Schiappa, meglio spendere così che spendere un bedetina per cambiare, da poi facciamo la valvole. Non c'è un danno. 200 euro, 200 euro. Non c'è un danno. Però non ce ne metto un sacco di dinastra, facciamo la valvole, cantesici, tutto il fasciato, cioè, per smontare tutto. Trabbia e luci. Quello si avanti, chi è il figlio di Tino? Sì. Lo so fare io, non c'è nulla. Se da lontano 5 minuti, qua non bisogna. Io molte volte gli metto il look, spengo tutto perché tanto sono sicuro che lui qualcosa tocca, solo che ti ricordi l'apparato che ho io, la manopolina, gli piace girarle. Sono tutti così. Perché quando era piccolo era così, mi stava sempre parlando, le baracchine, cosa adesso non le vuole più sapere. Le più così. La gente è un vivo. Non sedere un'ambulanza. Sì, mi ricorderò sempre una frase che ha detto Antonio. Siccome io ho sempre fatto il volontario al CISO a Sassari a Latte Dolci, e c'era anche Pierpaolo con me che faceva il volontario, e a Capodanno facevamo il cerone tutti i volontari con le mogli, i figli, eccetera, eccetera. Ed era capitato che quel Capodanno avevamo portato anche le zampe d'agnello. I piedi d'agnello c'era con due persone che li avevano fatti. Una che li aveva fatti duri la balla che non si potevano mangiare, gli altri che erano buoni che si scioglievano in bocca. Antonio si è messo il piedino, quello che si scioglieva in bocca, ha detto chi si vede sono molti chi la mezza. Era piccolino, ci ha fatto pisciare a tutti. Voi quanto che combinavo, mamma mia, un abito lo diavo che ne inventava. Ecco una voce a dire che da un po' di vedere ecco una mezza glassia e tutti i cadri giocando a tirare. Raccontami quello che gli ha fatto la maestra. Raga, ma al maestro? Al maestro che era, dai. Cazzo. Non si mette il piede di rubiato al freddo, lui era giocando a dove, ha ripisciato 30 a uno di quei tantini piccoli del caffè, gliel'ho messo dentro, e ti è andato a B, gli ho detto buono professore quel caffè, ti ha ripisciato 30. Allucinante. Fuori di capo. Adesso mi sono un pochettino calmato, ma una volta adesso mi aveva fatto qualcosa, no, non mi ricordo bene la suora cosa cavolo mi aveva fatto. Allora io per dispetto, girando e zinzolando, trovo una di quelle chiavi della ruota, sono andato là, già di mollato di la macchina. C'è passata un'oretta e mezzo, così è andata a farci, ma dopo un cazzo di stessi la mano, di capote c'è la macchina di bianco. Ai, via! Lucia, attenti, attenti. Così è, no? E Antonio, per carità, io mi ricordo che quando più quale era acceso con me, intanto mi telefonavano da scuola il direttore di andare che il figlio aveva combinato una cosa, me lo ricorderò sempre. Quello che vuol dire una cosa, l'acceso, aspetta, non mi ricordo come cacchio si chiama, la tua pupilla, ti ricordi? Mia pupilla... cerca di farmi capire. Aspetta. Ti dico il cognome, sì, su. Ho capito, là. Ho saputo che è partita. Che fuori in continente con Corrado. Sì. Mi sa dici perché non le può soffrire, non credo a partire. Sì, sì. Meninzana. Meninzana. È in gamba. Ilaria è troppo in gamba. È una ragazza veramente simpatica. Ci pensa che una volta se n'era andata a soccorso sardo e ci è mancata tanto perché ci faceva tante quelle risate. Simpatica, là, 100%. E poi ha sentito la nostra mancanza e è ritornata da noi. Sì, la conosco. Tu pensa che è la sorella della moglie di mio cugino che ci stiamo frequentando quando andiamo al mare, dai. Scappagappa. Ma lei era in gamba. E io mi ricordo quando l'ha portata il padre, ha detto la fine delle vostre mani, però me raccomando. A tenere un'occhiata e cosa, perché minore non si preoccupi, l'accompagniamo anche a casa, non c'è problema, infatti l'accompagniamo a casa. Dai al vino. Sì, conosco tutti della famiglia. E adesso sta lavorando, Ilaria. Visto che stava lavorando in un negozio alimentare, non mi ricordo dove. Oh già. è cambiato parecchi, ne ha cambiato parecchi di lavori da quando è su. Ma se perché si è trasferita definitivamente? No, per il momento no, però ci sta. No, questo non lo sapevo, pensavo che fosse stato per farsi un viaggetto, ecco. No, perché prima era qua, stava lavorando in un tipo in pare, era a Isa, alla Isa forse. No, c'era trasferita, ha fatto la fuitina. diciamo che sta con il tipo e quindi sta lavorando, non so se la cosa è seria o meno. Sento questo aspetto, non sapevo nulla sinceramente, sì, ho saputo che doveva fare un viaggio e cose, però non sapevo niente di questo. Vabbè. Speriamo che siano, se sono rose fioriranno, direi speriamo che non sia un colpo di testa. Allora, ma già siamo che stia durando, quindi. In gamba l'aria, a me quando mi metti mi ha preso tutto, è troppo alla mano. Beh, signori, ce l'abbiamo fatto, abbiamo neanche l'orologio. Sono le 11:20. Altro avete parlato in due, già ti ho sentito già. Ma per domani il viaggio dove si fa? Domani, guarda, stavo buttando per. Allora, adesso avevo internet acceso, adesso vedi. Stavo buttando per andarmene a fare un lancio con la canna da pesca, però mi sa che c'è l'imbiccio, vediamo com'è la cosa qua. Vedi, sabato, poco nuvoloso, mi metto dopo c'è l'imbiccio. Domani sabato ho messo ponente, poi dalle 6 alle 9 maestrale, e la notte che cade. Domenica invece ha messo scirocco, mezzogiorno, l'imbice l'ha messo questo martedì, però se ne guarda un po'. Questo Google Maps lo usi? Diciamo sì, qualche cosa già la vedo, va. Perché? No, perché sono andato a cercare la via di casa mia, mi sono trovato io in moto. Io sto usando Google Chrome, la variante veloce già. Già lo so. Non lì è. Ma aspetta, io no. Come che usano? Io sto parlando di Google Maps. Google Maps è quello che ti fa vedere le vie, tutto, ti fa vedere le macchine parcheggiate, tutto quanto. Aspetta un attimino, lo devo cercare, no, lo sto confondendo io allora già, io stavo confondendo con la sì, prendila, dalla mano col foglio, con Google Earth, no, sto confondendo, cosa mi hai detto? Google Maps con la S finale, metti sulla città, che fai vedere e poi metti la via. La ventola si è accesa. E che cosa? Ho detto, la ventola gli si è accesa, cosa? Mattino, adesso, bloccando. Ma che si sente? Tappa, vabbè, il classico, tutti quegli apparecchi, quando si accende la ventola si sentono. Allora, già, io ci sono, dimmi. Devo mettere la via, adesso provo a mettere la via a vedere se mi vedo. Io all'inizio vedo la macchina mia parcheggiata, tutto qua. Ma non la conoscevo, allora vediamo un attimino. Se... Ma non penso che faccia questa via, aspetta. Fa tutte via satellite, quello. Ho voglia. A capitare, ragazzi, che sto passando io in moto, te ne immagini. Nel primo piano mi vedo. L'ho visto pure io, quello che stai dicendo tu, l'ho esplorato, già si vede già. Ma cerca su mappe, sulle mappe. Dipende da quello che, se non mi ricordo male, devi mettere dove vuoi cercare. No, già non me lo ricordo bene adesso. Devi scrivere la via proprio. Io l'ho scritta la via, però mi dice impossibile riconoscere la località. Metti via amore, scrivi le macchine mie parcheggiate. Adesso scrivo la via, non lo mettiamo prima io. Ma ci bisogna scrivere via Marco, oppure via Evo, oppure adesso Marco Polo. E scrivi via Marco Polo interno, non lo so, non l'ho mai abbreviato. Allora, mi lo metto, vedete? Allora, via Marco Polo. Buon cognatino, per scarpa Ermo, no, quindi. Sardegna. Ah, via Marco Polo abitavi prima. Dove si fa con Sassari? E poi vi metti la via. Aspetta, che ha parlato in due già con lei. Prima la con Sassari e poi la via. E vabbè, adesso faccio il contrario, vedete. Sì, ma l'ho già trovata. Anche numero 7. Allora se ci so, se c'è una macchina. No, vabbè, se c'era. Perché adesso non ci sono più. Ma cazzo mi fa vedere in grande. Ah ecco, sì sì. E però prima riesce a vedere. Mi dà la via al contrito. Sai chi c'ha il coso lì? Sì, io ho utilizzato questo. Lascialo lì. Allora, c'è lì che è la mia cugina. Vediamo se c'è questa. Allora. Cazzo no, non c'è la macchina. C'è la macchina di quel deficiente di su. Sì, comunque la. E la casa è come quando ero io, quando c'ero io lì. No, non c'è la macchina però. Vabbè, è di mattina, Ma non è in diretta, Sono, diciamo, delle riprese. Delle riprese qualche mese. Di qualche annetto, perché ci sono dei particolari che riconosco e quindi tipo per dire il condizionatore che ci manca già da una vita, ci manca allora il condizionatore ce l'ho io e ci manca buoni 4 anni. Meccanismi qui possono entrare a fiaccare dentro casa tua. Insomma, un attimino, come fanno? Entrami. Hanno i metodi per entrare. A chi ti credi che non devono controllare i carabinieri, queste cose qui, non usano queste cose, questi sistemi qua. Privacy, quella. E quella è un'altra cosa, cioè dall'altro non è che entrano dentro casa tua, no? Diciamo che cioè, quello lì è un'altra cosa, che si usa appena, che entra una fiaccata dentro casa tua, gli altri passano tutta la baragana, non è facile, dai. E chi lo fa se lo tiene per sé, cioè non va a dirtelo. altrimenti sono cavoli amari. Ma già, ce lo dico anche una cosa, che se tu hai notato le macchine, tutte le taglie sono squadrate. Davvero? Beh, non avevo compreso. Se tu guardi, vai a guardare per dire una macchina che ti interessa, vedi la taglia, non riesci a leggerla perché è ombreggiante. Ecco, non ci ho fatto caso con quello lì. Ehi, ma c'è mio figlio che con quello lì si diverte un bel, mi ha chiamato, papà, fatti un peccato. E cosa mi peccato? Se sei tu in moto, in effetti avevo il 150, non il 400, non ricordo il 150, su tutti i 150 che c'è voi, siamo usciti anche una volta insieme. Sì, sì. Sto guardando già. Solo non ci vede, non c'è più l'antenna. Qui c'è l'antenna. E anche io guardato quello, ma non riesco a vederla. È un grande centro, però non ce la fa. No, no, proprio non. No. Non ce la fa, non ce la fa. Oh, adesso ci ho fatto. No, nulla, no, no, non c'è. Vuol dire che. Sì, vabbè, poi qualche anno fa, io 4-5 anni fa ormai l'avevo già smontato. Comunque bellino là, ti fa vedere le vie, le cose, se non sei qualche strada così devi andare e ti dice là dove devi passare tutto. Sì, vabbè, ti vedi il tom-tom e la notte si cosa. È già vero, ma tu non ti fa anche sbagliare molte volte, non porta a perdere, non da uno mi dice va di girare, non capisco che cazzo sto la prova a far fare. Aspetta, anche a me, però, siccome non sono aggiornati al 100%, cosa succede? Che lui si tiene la cartina, che ne so, del 2008, no? Se tu non lo aggiorni a quella del 2010, ci sono delle cose che magari non ci avevo ridate, però metti il caso che nel 2010 fanno una rotonda, ecco, non è che aggiornano, non è una cosa immediata, quindi la cosa sarà nel 2011 se la buona finita e tutto andrà in porto, hai capito? Sì, no. No, il mio è auto 6 giorni da solo, è auto aggiornato. Praticamente se fa una roba l'altra segna da subito. No, allora qui la cosa del prezzo, il Garde, non me lo ricordo bene. Non ho capito, il. Il Garmin, come tonto là. Sì, sì. Però non riesco a. Come si dice? A aggiornarlo. Poi mi sono attaccato al computer e me l'ha richiesto, mi sa dalla. No, devo chiederlo a Babbo. Me l'ha richiesto da là proprio. Per aggiornarlo. Non me lo ricordo bene adesso come fa lui. Guarda, io allora a me mi hanno dato un CD cifrato, però non sono riuscito a farlo perché poi ci voleva il codice, e il codice era del Garmin mio, che non era compatibile con il codice del Garmin che mi hanno dato, quindi effettivamente non sono riuscito a aggiornarlo. Ed è rimasto così, purtroppo è rimasto così come l'ho comprato. Non me lo ricordo bene come fa lui. Devo richiederlo a lui. Sono abbastanza buono, anche quello va bene quanto il conton, dai. Sì, ma a me piace anche come grafica. Adesso per dire, da poco sarà qualche mese fa, l'ho prestato la mia sorella perché dovevo andare a Cagliari in casa dei parenti che abbiamo lì a Quartu, e sì, è stato fare un giro strano, però l'ha portato al punto, si è sbagliato di qualche metro, perché dice, si è arrivato in destinazione, per dire magari si è sbagliato di 2 metri, capito? Però gli ha fatto fare un altro giro dove c'era un senso unico, gli diceva per dire gira a destra, non si poteva girare perché era un senso unico, allora faceva il calcolo comunque gliela ha portata lo stesso. Certo, no, già vanno bene già. Sono abbastanza buone. Anche il Tom Tom va molto bene, visto quello di Gianni. Diciamo che penso che siano tre migliori, quelli lì, quei due lì. Poi ce ne sono anche altri che va bene lo stesso. Avanti già. E c'è anche il Sony che va bene. Che è molto, io ne ho visto uno molto grande, anche un bello, veramente bello, c'è sul televisore, va lì. Certo, e anche quello lì ne stanno parlando molto bene, è molto buono come cosa. Ma allora però Giornario ci vuole una, sto facendo su internet, mi vuole un 70 euro per aggiornare questo qua, è possibile? Sì, si paga, non so come, ma a me addirittura mi hanno mandato per aggiornamento 10 euro in meno pagavo, ma non ne ho mai fatto. Io ti ripeto, hanno fatto la rotonda quella sotto dopo il ponte vicino a casa, di lì, e me la segnala, e deve essere fatta da poco. Mi segnala quella, di cosa delle, come si chiama, città mercato, fate la poco, pure me la segnala. Almeno, cioè perlomeno, almeno adesso sono un po' di tempo senza utilizzarlo anche, però gli aggiornamenti non credo che ci siano, infatti lo volevo aggiornare perché faccio qualche anno, ce l'avrò forse 3 anni, non mi ricordo, ma no, sinceramente non lo ricordo. Poi c'erano dei cambiamenti che non sono stati aggiornati. A me il primo che mi ha regalato mia moglie, Tonton, mi è partito. Allora, abbiamo trovato questo viaggio su internet, noi ce lo siamo andati a fare, a Pisa, con 20 centesimi a testa, abbiamo parcheggiato la macchina dell'aeroporto, ho messo il Tonton dentro il cassetto, l'ho lasciato un giorno, perché il viaggio era di un giorno, una giornata intera, il caldo forse me l'ha rovinato, non ha più funzionato. Addirittura, allora lo tolgo dalla macchina, io l'ho messo in macchina, ma perché adesso non è che stia facendo tanto caldo, comunque la sera quando l'ho preso la macchina, sai, essendo chiusa magari, poi questa qua io è tutta dritta anche sopra, hai tutto ciò apribile in entrambi, sia il lato del passeggero che il mio, si possono aprire tutti e due, e sono in vetro, quindi quando c'è una giornata di caldo, di sole, è tutto nello spicco la macchina. Mi va a mettere bene a mettere anche il baracchino. No, non è una tutti nuda, no. Non so se è presente, è quello 3 porte, non è quello a 5. Ho capito. Quindi tu pensa, i vetri normali di passeggeri e posto guida, quelli di sopra, quelli laterali in 4, quello dietro, uguale, è proprio lì, mi viene la scalatura solo a puirla. Vabbè, quelli sono macchine che fanno anche 300.000 km. Ma guarda, già, io ti dirò la verità, che quando sarà, questo l'ho parlato con un amico mio, che è meccanico, che ti ripeto, lavora lì alla Land Rover e poi un altro che lavora a Volkswagen, ma tutti lascia perdere, quando sarà da fare la frizione la facciamo, ma adesso fanno andare, sì che può, fanno andare, sono macchine che non hanno batterie di freni tagliandi, per dire, regolari, sono distruttibili. E vabbè, diciamo che la frizione magari tirando, facendo, ha più possibilità di consumarsi che altre macchine, perché se non tira fa più sottosforzo. Sì, però questa macchina era di una persona che lavorava lì a Porto Torres, quindi ha fatto chilometri di strada buona, diciamo, non è che ha fatto chilometri in città, ho fatto chilometri, facevo dalla Bretellina a Porto Torres, da Porto Torres alla Bretellina e così via, capito? E più o meno come la uso io la macchina. Chiappa, ma non apprezziamo tipo le macchine, però così faccia così così ne mancano, sono molto robuste come frazione. Non sono di dubbio, anche perché quello di sforzo poco le fa, no? Con la trazione che ha. Chiappa, sono macchine forti, e l'ho vista anche su Nuvolari, la storia dell'Under Rover. Hanno sempre fatto delle macchine molto robuste, cioè si basavano in feci pratiche allucinanti pure. Vabbè, il cosa del Lander rimane un pochettino più da vettura, ma è robusta, è molto robusta come macchina, cioè è indistruttibile. Vabbè, ma tu sei parlato del Defender, sei parlato proprio di fuoristrada, fuoristrada, questa qua è vettura uso fuoristrada al motore di un del BMW 2000, quindi con motore è buono anche. Chiappa, sì, io te l'ho detto che rimane tra fuoristrada e la fuoristrada, cioè, rimane tra una e l'altra. Però come cosa è fortissimo, come motore, come resistenza, come tutto, molto forte come macchina. Va bene. Poi sono già, mi sono messo a tirare, e ce l'avevo attaccata, tu cazzo, un pezzo di sabbia, e tu la fa culo, ho una buona spesa. Due sono di quelli che devi provare da cosa sono, non lasciare. Oh, non si accorta di niente. Perché l'ha tirata la macchina? L'ha tirata la macchina, la roulotte. La roulotte di per sé magari sbugliava in pantana. Ma la macchina no? Ma non è che non si accorta niente, proprio è andato, quanti che lo metto a lui, ma su sabbia sono. Cioè sono le marce normali oppure c'è un distacco differenziale, non ti molti. Ma questa è, ti ripeto, 4x4 perenne, però è una marcia, chiamiamola così, prima ridotta, che viene usata solo in casi estremi, nel senso che una discesa di 45-50 gradi, capito? Ecco, ho capito, tanto per tenerla frenata la macchina, per tenerla stabile. Sì, fa andare tutte e quattro ruote alla stessa velocità, poi non accendi e non devi toccare né freni né niente, perché sennò se tu più fermo per dire se ne c'è una marcia e ti mette la prima normale, capito? Come che gli dai l'avvio a accelerare, invece tu non devi fare altro che mettere per dire questo selettore, metti la prima e molli sia la frizione che il freno e l'acceleratore, devi proprio togliere i piedi dai comandi e devi solo pensare a guidare. E lì ha una velocità costante, adesso ti posso dire anche una quagliolata, magari una velocità costante di 15 km orari, 10 km orari, e tiene sempre quel ritmo lì, capito? Magari vabbè, una bella macchina. A godertela bene, sia la macchina che la ruota. Avanti a tutti. Chiappa. Mi sembra che quella lì, oltre che in discesa, mi sembra che si usa anche nei tratti normali per agganciare qualcosa, vero? Cioè, va proprio in forza, va. E togli i piedi dell'acceleratore e va, cioè, da forza, oltre che la discesa. Guarda, diciamo la verità che non ho letto il libretto dell'istruzione, chi me l'ha detto è il vecchio padrone della vettura, mi ha detto questo è quello che si usa quando fai una discesa abbastanza ripida e basta, però per quanto riguarda il traino non credo, non lo so, non saprei cosa dire. Io sapevo pure che me l'hanno detto e sapevo pure che cioè, cioè andava anche in traino, aveva molto a corto di traino. Boh, con questo lettore non lo so, non ho... devo provarlo, ti farò sapere. Certo, come ho fatto a vedere, ma io sapevo così, perché chi ce l'ha avuto, delle persone che conosco io, c'era cioè, molto a corto di traino, quando metteva le ridotte. No, vabbè, però, allora, io ho conosciuto dei forestali che avevano la marcia normale e poi a fianco aveva un'altra leva dove faceva, metteva le ridotte con la marcia, metteva la marcia normale più questa leva che era, questa qua invece è proprio un selettore, proprio nel suo, nel manico della marcia, un pastino, chiamiamolo così, selettore. È un tortino che tu devi schiacciare, lo devi abbassare e poi metterla prima. Al contrario degli altri che devi mettere, per dire, due marce, anziché una. Certo, così ho sentito dire cosa ti sto dicendo, che ha forza di traino molto. Poi non lo so, non so cosa possa essere. Sì, vabbè, la proveremo, così vediamo se funge. Gappa gappa, mi ha detto papà che quello che c'è qui, quello che c'erano loro anche al Ciso, ma dite che hanno attaccato loro un camion dei Vigili del Fuoco a partire dal Nero perché si era parato, cazzo, ne ha tirato fuori, ne ha tirato. Sì, no, già ne hanno una forte maledizione, che se sono macchine, poi dipende anche dal tipo di pneumatico che metti, dove ha più aderenza o meno, capito? No. Insomma, sono dei piccoli particolari che, per dire, le ruote io sono solo da strada, sono al 100% da strada, però vendo, per dire, un tipo di pneumatico che ha il 70% di strada e il 30% di terrato e così via, dai, magari dal 30% passa al 50% oppure al 100% di aderenza. Sono cose, sono particolari che devi sapere cosa vuoi farne tu della vettura. Gappa gappa, no già, quella che ci avete voi ci avete tutte le ruote da fuoristrada. Era un fuoristrada, era Land Rover, proprio fuoristrada, c'aveva anche il vericino con motore, eccetera, eccetera. Yeah, faceva proprio quei tacchetti che rossi voleva, già me lo ricordo io, me lo ricordo. Vabbè, ha detto che però c'aveva una forza allucinante, cazzo, era micidiale quello che ci aveva fatto voi. Guarda, dove ce l'ho ancora attaccato? No, l'abbiamo, quella lì l'abbiamo versata al gruppo di Ossiri. Così com'era, l'abbiamo data. Si devono fare solo dei lavori di motore perché c'era la perdita di olio, ma chiazze piccole facevano. Devono fare lavoro di manizia dal motore, non lo so, forse perdeva la coppa, non lo so da dove. E poi per il resto andava bene. Si attacco per dire un montacarichi a 220, gli metto un inverter tramite la batteria facendo le 220, non va bene lo stesso. Come con queste idee, che è capo d'acciaio sempre c'è. E allora? Va bene. Ne vuole un umano, ne vuole, canta sopra il suo coso. Quante assorbe, basta mettere un buon inverter e diciamo che quanto avrà 1800 watt di tiraggio, che ne so, non ho l'inverter, però io è da 600 watt, tocca mettere più di uno. Chiappa, sì, rischiato con lui è comodo, anche noi già ce l'abbiamo, troppo comodo l'inverter. Sto usando per un televisore 16 pollici che ho appena fatto una ruota per il bambino e ti dirò che ci ci può attaccare il phone, ci attacchi il televisore, la carica batterie del telefono, è tranquillo, è pronto. Appagata, sì, sembra così, ma cioè, nel momento che cioè, magari c'è il telefonino scarico, cioè, ci puoi attaccare un computer, ti si scarica la batteria, cioè è troppo, guarda, è un bel comodo, devi fare un lavoro di saldatura in macchina, cioè sembra così ma è comodo, no? È così. Allora, bambù, signori, vai, mi ha fatto piacere la vostra compagnia, però mi sa che stanno chiedendo le balestre, siccome sono la terapia e sì, vuole di andare a riposare, che se no domani non si fa niente, e sentiamo le prossime, dai, state bene, buon prosieguo, tante cose belle, già, a te la prossima volta, buona pesca e sentiamo, ciao. Ciao, ciao, tutti, ci sentiamo, buona giornata, me la vado anch'io, là. Ciao a tutti, saluto anche io che tavo, buonanotte a tutti. Buona pesca, ciao. Ciao ciao, buonanotte Dino, buonanotte Gianni, ce la risentiamo tra le prossime, anche io adesso mi corico che sono stanco e domani è triste. Ciao ciao, buonanotte a tutti, mi ha fatto piacere comunque la chiacchierata, a risentirci, alle prossime. Ciao ciao. Ciao ciao, lui che stava addormentando i piedi. Che appagata. Buonanotte a tutti, ciao ciao anche agli ascoltoni, ciao ciao.